Il punto di Stefano Folli. C'è una differenza nel tono e nell'intensità con cui Monti polemizza sia a destra Berlusconi sia a sinistra Bersani. Ed è una differenza di sostanza, perché nel primo caso Berlusconi si tratta di un avversario strategico, nel secondo di un avversario con cui domani si potrà e forse si dovrà collaborare. Berlusconi è l'avversario strategico di Monti, perché quest'ultimo non pensa di poter domani collaborare con lui, perché vuole sostituirlo come terminale italiano del Partito Popolare Europeo, soprattutto perché gli elettori più o meno delusi di Berlusconi sono proprio quelli a cui guarda il terzo polo di Monti. A sinistra invece c'è da impedire che Bersani stravinca, magari togliendogli la maggioranza al Senato, ma c'è la possibilità, non proprio la certezza, che i vari riformismi, diversi riformismi, stringano un patto nella prossima legislatura, come Monti auspica e come lo stesso Bersani in fondo desidera.